profumo da tutte le parti. Sei a galla tra mille scale, cerchi scuse per i tuoi rimpianti. Non hai nascondigline tane. Spegniti tu, ma lasciami il mare. Spegniti tu, ma lasciami stare. Spegniti tu, ma lasciami il mare. Spegniti tu, ma lasciami stare. E se scoppiamo manca il fiato quando sei lontana, sei la rima immersa in queste curve, strade che se le percorri insieme a me voliamo. Noi respiri intensi in questo mondo asmatico. So che ti senti carico quando lavori, non è più ramarico. Se ti conviene poi prenditi un poco di tempo, un alito di vento e passi il valico del senso di questa notte che sembri un isterico. Urli e ti prendi a cazzotti nell'animo, prova a respingere questo tuo panico. Cazzo mi dici che sono lunatico, tu che ieri hai cambiato il flow. Io sono lo stesso del primo giorno, tu sei la storia del vecchio mondo. Falso, vero, stato, sclero, rabbia. Zero, zero, zero, zero. E se scoppia? Lasciami stare, spegniti tu, ma lasciami il mare. Spegniti tu, ma lasciami stare.